Do il benvenuto ad Anna Amadori, attrice e regista dello spettacolo I Girasoli. Benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno e grazie dell'accoglienza, dell'interesse. Allora, innanzitutto io partirei un po' dal chiederti, Anna, che cosa racconta questo spettacolo dal titolo I Girasoli. Allora, I Girasoli vede in scena quattro donne, che sono la madre e tre figlie, ed è un viaggio a ritroso, a rebours, come lo chiamano i francesi, in onore dell'autore, che è Fabrice Melchior, di questo testo molto bello che è stato tradotto per la prima volta in italiano da noi, da Liberty, in collaborazione con il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna, una collaborazione che si ripete due volte, perché già la prima volta io ho lavorato insieme ancora con Elena Di Gioia, che ora produce questo lavoro. Ho già lavorato sull'Inatteso di Fabrice Melchior, anch'esso pubblicato e edito in italiano per la prima volta a cura nostra, a cura del Dipartimento dell'Università. Quindi questo testo è un viaggio a ritroso, un ritorno a casa e quindi una riapparizione di ricordi e di figure che ha per protagonista una madre, Violet, e tre figlie, Blue, Black e Brown. Dietro a questo testo, come dice Melchior, c'è come suggestione, c'è la casa di Bernarda Alba, cioè un universo, una casa in cui la madre è in qualche modo il blocco della vita di queste ragazze, la mancata libertà. Quindi queste Violet impaurita per esperienze, per carattere, dal mondo esterno, non fa uscire queste ragazze, nega la possibilità di una vita futura, e chiaramente le tre figure delle figlie rispondono in maniera differente a questa costruzione. Quindi il racconto è questo, c'è tutto uno sviluppo, ma soprattutto, più che di racconto, io parlerei di figure femminili che vengono fuori e di disegno di relazioni femminili e di relazioni della femminile con l'esterno, con la vita sociale, insomma. Questo è il nucleo del lavoro. Ha una grande abilità nella scrittura di personaggi, soprattutto femminili, e riesce a trasformare delle situazioni quotidiane in situazioni fantastiche, dove il comico e il tragico stanno insieme. Quindi è un lavoro dove si ride anche molto, e anche ci si commuove, si piange, però ecco, questo è il lavoro. Chi sarà in scena insieme a te, Anna? Allora, ci sono tre attrici, che sono Marina Occhioreno, che interpreta Blue, Giuliana Bianca Rigogna, che interpreta Brown, Consuelo Battiston, che interpreta Black. Sono nomi, come vedete, legati a colori, sono colori, ed è un gioco sempre che fa Fabrice, quindi sono anche i nomi stessi mandano a qualcosa di sensoriale e di astratto. Ci terrei a dire che, oltre al lavoro delle attrici in scena, ci tengo a far presente i costumi di Emanuela Dall'Aglio, con la quale collaboro per la prima volta, e che per me è un grande piacere, una grande soddisfazione, perché è una grande artista, e Alessandro Amato, che ha pensato e realizzato la scena e il disegno luci. E poi ci sarebbero tanti ringraziamenti, ma questi forse dopo, se ci abbiamo tempo. Ringraziamenti a Alberto Sarti, che mi cura l'immagine, ringraziamenti a Guido Sod, che è il mio consulente musicale, ringraziamenti a tutte le persone che hanno partecipato alla creazione di questo lavoro, insieme a me e all'Associazione Liberty, Agorà, nella figura di Elena Di Gioia, grazie alla quale tutto questo in qualche modo è possibile. E Anna, quando andrete in scena e dove? In scena andremo mercoledì 27, cioè domani, alle 9, all'ITC di San Lazzaro. Siamo in programmazione, quindi tutte le informazioni possono trovarsi sia sul sito del Teatro dell'Argine, sia sui social di Liberty, sui miei social, ci sono tutte le informazioni. È necessario ovviamente il Green Pass per accedere al lavoro, e queste sono le informazioni, credo. Per prenotare bisogna andare al sito, e eccetera eccetera. Comunque sui social troverete tutto molto chiaro, secondo me. Perfetto, Anna, io ti ringrazio e invitiamo ancora tutte e tutti allo spettacolo di mercoledì 27, I Girasoli. Grazie ancora. Grazie, buona giornata, arrivederci, a risentirci.